para ta fa que kiss me ven a ti je te voudrais avasar et pourtant ne te gomme que ta je dit ta fa son amour a t'été peu que vas à ne m'accoussi tu m'embarras da di sti cose sconosciute capre sorriente sta luna se ne so chiuta cu te tu sapendo non tornar che m'embarras da fa sti frase pura stera amore che dea felicità che m'è imparata a fare. E stella da marina che la sera pareva ci volesse incantare per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità tu che m'è imparata a fare che mi ven a di io te vorrei avassare io pur tante con me che t'aggi di ta fa son innamorata di te perché stringendomi così tu mi imparai da di sti cose sconosciute capre sorriente sta luna se ne so chiuta con te tu sapendo non tornare che mi imparai da fa sti frase furastere amore che dea felicità che m'è imparata a fa amore che dea felicità che m'è imparata a fa.